Guardo la TV da quando so che non tornerai. So che forse non l'avresti detto mai. Passano una pubblicità di vitamine. Mi fa stare bene da morire. Però ieri, ieri, ieri, ieri. No, sono caduto dal letto. Io non ti cercherò. Però domani mi pento. Correvo nella stanza come un bimbo in Range Rover. Ma non mi passa, non mi passa mai. E sono fatto di brutto, ho provato di tutto davvero. Dopo tutto sono ancora tutto intero. Vitamina A, vitamina B, cacca zero. Faccio casino, dico che non c'ero. Voglio comprare casa, anzi un hotel. Fumare finché non brucia il mondo. Oggi mi sento bene da morire, morire. Però ieri, ieri, ieri, ieri. No, sono caduto dal letto. Io non ti cercherò. Il tempo delle pubblicità. Sono ancora sveglio e tu fra le vie del centro sgombri l'appartamento e non mi